E benvenuti alla 18ª puntata di Cialtroni nello spazio. In studio Francesco, Marco, Alessandro e un ospite speciale, Fabio. Ciao, ciao a tutti. Un ospite, un redattore. Ciao a tutti. Allora Marco, vediamo se ti sei preparato. Che cos'è Cialtroni nello spazio? Che palle, volevo girarti questa domanda. Allora, è una trasmissione musicale informatica che fondamentalmente parla di software libero. E è una interessantissima trasmissione radiofonica che piace molto ad Alessandro. E vabbè, cerchiamo di vedere un po' tutto, tutte le cose di cui parliamo sono più o meno incentrate sull'informatica, sul software libero, quindi musica libera e programmi liberi, tutto libero. Ti sembra interessante, Fabio, come presentazione? Beh sì, è molto interessante come argomentazioni. Lo seguo sempre, diciamo, dai. C'è anche un po' di musica, per fortuna, per spezzare con le nostre cialtronate. D'altronde, Cialtroni nello spazio, 18ª puntata, una puntata decisamente ricca, densa e piena oggi. Avremo tra poco anche un ospite telefonico, speriamo, se riusciamo a contattarlo, visto che è in spostamento e ci sono gallerie lungo il suo viaggio. Presenteremo, prima di contattare Simone, presenteremo anche un programma, come nostro solito, e poi lasceremo la parte pacco, la parte difficile, la parte tecnica a Fabio, che ci parlerà di reti senza fili. E intanto un po' di musica. Alessandro, che cos'è? Allora, questa sera vediamo questo pomeriggio, un pomeriggio, va bene, siamo sempre in differita ovviamente e me ne spatto di regolare gli orari. Comunque, questo qua si chiama D-Jet, il nome d'arte, è un artista di Mosca. Il suo nome reale è Alexander Lisovsky, fa il DJ dal 2003 e scrive lui tutti questi pezzi. I pezzi li abbiamo scaricati sempre da musicagnula.org. Comunque il sito di questo DJ è hearusplay.com, hearusplay, e comunque il link lo trovate sul sito, che è un po' complicato anche da dire. Oggi siamo con i tempi un po' serrati, entriamo subito nel vivo della trasmissione. Alessandro, qual è il programma di oggi? Allora, ha chiamato me, ma ha passato il microfono a Marco. Sposto il microfono a Marco per prepararlo con una domanda bastarda da fare ad Alessandro, per quello. Allora, oggi presentiamo 7-Zip, che è un decompressore, cioè un'alternativa a WinZip. È un programma che vi permette di aprire i file .zip, ma tanti altri tipi di file compressi. Ecco, che cos'è un file compresso? Allora, un file compresso è un archivio, un file che contiene tutta un'altra serie di file che vengono inseriti in questo archivio, in maniera tale che lo spazio complessivo occupato da questi file sia nettamente inferiore. Ad esempio, serve per trasferire programmi via internet, perché ne riduce notevolmente lo spazio occupato. Comunque, vabbè, il punto zip ormai è abbastanza diffuso e insomma anche i meno esperti riescono a gestirlo ormai. Questo programma è fatto abbastanza bene, supporta molti formati, il formato zip, il formato RAR, il formato RJ, per quanto riguarda i formati più utilizzati su piattaforma Windows, mentre per quelli più utilizzati invece su piattaforma Unix-like o Linux c'è gzip, bzip, tar, addirittura gli RPM e i deb. E ovviamente è un software aperto, è sotto licenza GNU LGPL. E interessante, e vabbè, sotto Windows ha un'interfaccia grafica abbastanza semplice sullo stile del file manager, quindi una volta che si clicca su un file.zip si apre una cartella che presenta l'elenco dei file, più o meno come se fosse l'elenco dentro l'Internet Explorer. e con le iconcine uguali ci sono i vari bottoni esplicativi, estrai, aggiungi, testa, eccetera. Ecco, ma perché dovremmo utilizzare questo programma al posto di WinZip ad esempio o qualsiasi altro programma di compressione? Allora, innanzitutto perché WinZip è uno shareware e quindi di fatto a meno di craccarlo tra virgolette rimane valido solo per una trentina di giorni. E poi fondamentalmente perché questo ha le stesse caratteristiche e in più è software libero. È software libero, è fatto molto meglio, nel senso che con un mega di programma avete un supporto di, per un numero maggiore di formati, perché ad esempio WinZip non apre gli RPM o i DEB, eccetera. Può essere formati ad esempio di compressione tipici di Linux, esatto, il WinZip 2 non ne ha nessun interesse. Il software è anche in italiano, perfettamente tradotto, ovviamente molto semplice la traduzione perché il software è piccolino. E altra cosa interessante di questo software è che propone un proprio formato di compressione che è fatto molto bene, si chiama 7-zip ed è un formato che riesce ad essere addirittura più efficiente del BZ2, che è un po' quello col maggior rating di compressione che c'è, diciamo, in circolazione adesso. Altra caratteristica di questo 7-zip è stato fatto un porting su Linux, quindi se fate un file .7z esiste la possibilità anche di aprirlo sotto Linux, quindi non c'è più, diciamo, motivo per cui non utilizzarlo, insomma. Non ho dimenticato il sito www.7-zip.org. Comunque se lo cercate su Google è la prima cosa che vi viene fuori. E poi comunque tutti i link che diamo nella nostra trasmissione sono disponibili sul nostro sito, raggiungibile finalmente dal nuovo indirizzo spazio.circolab.net. Adesso un brano musicale in attesa di collegarci con Blicero. Attention. Adesso siamo in collegamento con Simone, che si trova in treno, Simone di Ippolita, per parlare di un libro che si intitola Open non è free. Ciao Simone, grazie di essere in trasmissione con noi. Ciao. Senti, volevo partire proprio dal titolo di questo libro, che forse tradurlo in italiano molti non lo capirebbero. Open non è free, perché questo titolo, di che cosa tratta? sì, allora, perché noi siamo partiti, diciamo, da una sorta di tentativo di fotografare un po' la situazione nella quale si trova in questo spazio open source e il free software. E quindi per fare una fotografia che deve per forza venire mossa, perché si stanno muovendo molte cose, abbiamo ritenuto di mettere come titolo proprio open, non è free, per specificare innanzitutto che noi riteniamo che l'open source non sia il free software e che tra le due cose passino parecchie differenze, e che in qualche modo anche l'open source si costituisce un tentativo di fare proprio tutti dei metodi del free software per poi proporli al mercato in un certo modo, e teniamo che sia un altro genere di cose. E tentiamo non di afferire niente in particolar modo con questo libro, ma tentiamo semplicemente di introdurre tutta una serie di elementi e di cose che stanno muovendo ora, e di proporlo quindi poi alle comunità hacker dalla quale, all'interno delle quali bene o male il libro nasce, per appunto far scaturire una riflessione e tutta una serie di anche analisi di una situazione che è in costante evoluzione e che fa sì che i software open source siano molto differenti tra loro, tanto lato back-end, diciamo, per utilizzare un termine tecnico pure, ovvero quello che sta dietro, tanto l'open source quanto i software, le comunità, le multinazionali, cioè che si muove, quanto anche lato front-end, ovvero la loro proposizione poi sul mercato, perché se l'open source in qualche modo ha ormai conquistato larghe fette di mercato contro il monopolio, diciamo, della Microsoft, il free software presuppone in qualche modo un altro tipo di economia, non prevedendo comunque l'inesistenza del mercato, quindi da tutto questo ne seguono tutta una serie di considerazioni particolarmente interessanti che abbiamo ritenuto tali, quantomeno. Ecco, voi ci avete scritto poi un libro che tra l'altro è anche liberamente scaricabile. Da come è nato il progetto del libro? Un lavoro collaborativo fatto da chi? In che modo? Sì, allora, il libro in realtà è stato scritto a quattro mani, ma costituisce di fatto è il risultato di riflessioni che nascono insieme a una comunità che è quella di Reload, prima ancora dell'OA. Comunque siamo una comunità di hackers più o meno protagonisti della scena hacker, perché c'è chi come me invece è abbastanza smanetto un po', ma sono più un osservatore, chi invece c'è più dentro, e quindi in qualche modo è nato da quattro persone, si è ritrovate e abbiamo deciso di fare questo esperimento. In realtà poi il libro già di per sé, fino abbastanza presto, abbiamo capito che non ci bastava neanche, perché ovviamente abbiamo deciso di rilasciarlo immediatamente gratuitamente su un sito, e poi abbiamo deciso invece di rilasciarlo semplicemente su un sito, di creare un vero e proprio server indipendente che fornisca quindi servizi alle comunità scriventi, in una sorta di processo che faccia sì che qualsiasi comunità scrivente possa utilizzare i servizi che come ipolita.net possiamo dare, ovvero uno spazio wiki per la scrittura collettiva, una mailing list di coordinamento, diciamo, del progetto, che poi può avere un output commerciale, come è capitato a noi con una casa editrice, quindi arrivare sul mercato, ma rimanendo naturalmente sottoposto ad una licenza come Creative Commons o un'altra licenza libera che ne consenta la distribuzione, la copia e anche la modifica, perché comunque il libro rimane su Ippolita, sul wiki, e quindi può essere da adesso anche modificato da tutte le persone che ritengono interessante interagire con quanto abbiamo scritto noi. Quindi il libro in sé è, appunto, abbiamo definito un output momentaneo sul mercato, posto che poi potrebbe essere che fra un anno e mezzo usciamo con OpenNFI 2.0, perché abbiamo raccolto talmente tante cose su internet da parte di altri utenti che, insomma, il discorso si è evoluto, non lo so. E quindi dietro al libro, diciamo, c'è l'idea di questo server indipendente che, ma appunto anche in questo caso qua, dovrebbe sviluppare una progettualità relativa alle comunità hacker e non solo. Abbiamo già alcuni progetti, ce n'è uno che riguarda le traduzioni, c'è la possibilità di ospitare anche su ipolita.net un libro che tratterà di Serpi Canaro, e ci sono altri progetti che in questo momento qua stiamo in qualche modo valutando insieme per appunto riservare lo spazio sui quali inserirli all'interno della nostra comunità. Ecco. Ciao Simone, sono Alessandro. Sì. Volevo chiederti, voi avete presentato il libro a Verona domenica, e all'interno della rassegna Brutti Caratteri. Volevo un giudizio sul dibattito che c'era stato e su, insomma, secondo te quanto era passato del dibattito di domenica. Sì, allora, il dibattito è stato interessante per noi intanto perché era anche la prima presentazione in assoluto, quindi eravamo anche un po' curiosi di vedere, insomma, in che situazione ci si trovava. E stato molto interessante perché in qualche modo ci ha aiutato a capire che non tutto va dato per scontato, nel senso che probabilmente l'ho fatto anche parlando con voi, magari c'era qualcuno che non avrà capito, perché qualche ascoltatore non sa cos'è Wiki in effetti probabilmente. Ecco appunto, vedi, quindi vabbè, il Wiki è semplicemente un software che permette la scrittura più umana e la scrittura collettiva, c'è un splendido esempio che è wikipedia.it dove appunto si può vedere come funziona Wiki. Quindi ad esempio anche nell'ambito della presentazione abbiamo capito insomma tutta una serie di cose, credo che il dibattito sia comunque interessante perché bene o male la gente qualcosa ormai ha masticato, ha sentito di free software, di open source, soprattutto di open source, quindi è sempre molto interessante andare un po' a rivedere anche su una balestra di tempo che va dagli anni 70 ad oggi tutto ciò che si è modificato all'interno del mondo software e in qualche modo di come un aspetto che sembrava un po' più riservato a specialisti oggi quantomeno come impatti nella vita di chiunque, di qualunque persona, visto che più o meno tutti usano o hanno in casa un computer. Quindi è stato sicuramente un passo interessante perché ho visto anche la partecipazione di PIN, di CopyDown, quindi abbiamo parlato anche di Creative Commons, di licenze, direi un dibattito abbastanza ad ampio raggio, forse pure troppo ampio perché evidentemente tutta una serie di aspetti avrebbero bisogno di più tempo a disposizione per essere spiegati e dibattuti interamente. Sottoscrivo le tue impressioni, insomma il dibattito è stato un po' troppo vasto probabilmente. Sì, però forse si corre un po' al rischio in queste occasioni di parlare a tecnici senza spiegare niente di troppo tecnico e a neofiti senza riuscire comunque a farsi comprendere perfettamente. In un certo senso forse il lavoro è necessario che coinvolga di più la comunità e a questo è probabilmente anche lo scopo del sito Wiki e la possibilità a tutti di contribuire. Assolutamente, il rischio è quello della via di mezzo, nel senso che chi ne sapeva poco rischia di non averci comunque capito niente, chi ne sapeva tanto rischia di non vedere accontentate magari tutta una serie di curiosità. Questo naturalmente è un po', insomma, è come tutto il resto, è un work in progress costante. Nelle prossime presentazioni a Napoli, alla meeting, eccetera, probabilmente ci saranno tutta un'altra serie di problematiche che emergeranno. In generale comunque è buona la curiosità relativamente a questi aspetti che appunto ormai comincia ad investire anche non più solo i tecnici o gli specialisti, perché il libro in qualche modo cerca un po' di tracciare tutta una serie di storia o di caratteristiche che possono essere un po' comprese dappertutto, cioè può essere anche letto a capitoli, cioè l'esperto può capire fin dall'indice quali sono i capitoli sui quali può essere più interessato, così come il semplice curioso può fare altrettanto. Perfetto Simone, noi ti ringraziamo, ti ringraziamo di essere stato con noi, magari sarà possibile presentarlo anche a Brescia, chi lo sa magari. Ah beh. Sì, grazie a voi. A presto. Grazie per il treno, ma... Figurati, ciao. Grazie, ciao, a presto. Quindi ringraziamo Simone di essere stato con noi dal progetto appunto Ippolita.net. Noi adesso ascoltiamo un brano musicale e poi lasceremo la parola a Bio, che lo riempiremo di domande per cercare di far capire che cos'è una connessione senza fili. Ah, cambiamo adesso decisamente argomento, andiamo a parlare ancora di cose un po' tecniche. Faremo tante domande per permettere a tutti di capire questo discorso, nonostante sia un po' tecnico e magari il rischio di risultare un po' incomprensibili forse a volte c'è. E nel caso capiti potreste sempre andare sul sito spazio.circolab.net e dire la vostra, e appunto dire quello che non avete capito o magari quello che vi interessa della nostra trasmissione o di chi vorreste sentire parlare, compresi gli insulti. Infatti gli insulti sono la cosa che più gradiamo. Devo dire che ne sono arrivati ancora molto pochi rispetto alla media di email che abbiamo ricevuto. Esatto, lasciamo perdere. E niente, allora appunto adesso appunto Fabio ci vuole parlare un attimo di tecnologie senza filo, di wifi, di WiMAX e di quant'altro. E di quant'altro. Ok, cercherò di essere... Innanzitutto ti ringraziamo di essere con noi e farti patire questa... Ok, niente, allora partiamo dal concetto di connettere dei computer in rete. Allora, fino a qualche anno fa, diciamo 10-15 anni fa, l'unico modo per connettere dei computer assieme in rete era quello di attaccarci un filo ad una scheda detta di rete. Come abbiamo cercato di spiegare qualche puntata fa. E questi computer riescono a parlarsi assieme, esatto. E ultimamente questa nuova tecnologia wireless, ovvero senza fili, permette con degli apparati, degli apposite dispositivi, di connettere insieme dei computer non utilizzando il filo, quindi rendendoci liberi. Si può dire un po' che è stato come il passaggio dal telefono al cordless? Sì, una cosa del genere, come, non so, le macchinette telecomandate da quelle che avevano il filo e dovevi corrersi dietro per giocarci assieme da piccolo. Continuiamo sugli esempi semplici. Una cosa del genere. E appunto questa tecnologia permette di connettere un computer non essendo più vincolati al cavo, quindi se io ho un computer in cucina, mettiamo, e un altro in soggiorno, attraverso un access point e una scheda di rete wireless questi computer si parleranno assieme senza bisogno di essere collegati con un filo. Ecco, ho parlato di access point. L'access point è quel dispositivo che permette ai computer che hanno una scheda wireless di comunicare con la rete con i fili e senza fili, e l'access point permette a i computer dotati di scheda senza filo comunicare attraverso questo access point, esatto, perché l'access computer, perché l'access point è collegato con un filo al resto della rete. Quindi, facendo un esempio pratico, io voglio andare a leggermi le mie mail stando comodamente seduto in bagno, quindi mi prendo il mio portatile con la mia schedina wireless dentro, e esatto, la mia schedina parla con l'altro computer dove sono fisicamente archiviate le mail, oppure sono direttamente connesso a internet, e quell'altro computer, attraverso ad esempio la DSL o il modem di casa, mi connette. Ti connetti a internet, esatto. La soluzione è particolarmente utile proprio in quelle case, insomma quegli uffici dove ricablare o comunque portare i cavi potrebbe essere faticoso oppure costoso. Ma per esperienza personale è molto utile anche quando avete una macchina in giardino e volete tranquillamente navigare in internet. Il solito gurdo. Sì, di lati positivi ce ne sono veramente tanti, diciamo. E di lati negativi invece? I lati negativi, beh, è una nuova tecnologia, quindi è possibile. Ma guarda, ti faccio subito una domanda. Per entrare nella rete di un computer ti permette di accedere in qualche modo ai dati dei computer che sono connessi a quella rete. Forse prima, se c'era una protezione fisica che era dovuta al fatto di dover entrare in una casa, entrare con un computer e connettersi a quella rete con un computer e un filo per accedere a quei dati, forse adesso è un po' più semplice. Sì, ecco, hai colto nel segno, nel senso il mezzo di trasmissione è l'aria, e quindi l'aria non la puoi proteggere, mentre prima il cavo dovevi entrarci dentro, insomma dovevi essere tra i due computer che si parlano, tu dovevi essere in mezzo fisicamente dentro al cavo. Adesso puoi essere nell'aria, cioè il segnale non ha un confine ben delimitato. hanno una certa portata i dispositivi wireless. Tipo? Beh, si parla di un 300 metri in area aperta, 150, dipende. Insomma, escono dalle abitazioni tranquillamente. Possono uscire dalle abitazioni. Beh, non so che casa magari è passando dalla mia esce di sicuro. Dipende ovviamente dallo spessore dei muri, dalla dimensione delle finestre, dalla posizione, dai riflessi, da tante cose. Però comunque non si può avere la sicurezza che il segnale rimanga sempre rinchiuso all'interno della casa. Anzi, direi che si ha la sicurezza che non ci rimane. Esatto, tornando al paragone delle macchinine, sarebbe come noi ci stiamo divertendo in giardino con la nostra macchinina radiocomandata, c'è il solito vicino cretino che c'ha lo stesso telecomando e ci fa schiantare tutte le volte la macchinina. Insomma, un po' anche quello che succedeva negli aeroporti di aeromodellismo prima che decidessero di utilizzare frequenze diverse, di andare in giro con dei cartellini appesi, uno prendeva per sbaglio l'aeroplanino di un altro e lo faceva tipicamente schiantare perché riusciva a entrare all'interno della sua frequenza. Non ti è mai capitato? Non avevo modellini, aeroplanini, radiocomandati. E nemmeno macchinine. Beh dai, non è così disastroso il mondo del wireless. Nel senso che se ci sono più frequenze, diciamo, nella stessa zona, ci si, diciamo, si trasmette su canali differenti. Cioè i dispositivi sono fatti in modo tale da non, diciamo, disturbarsi tra di loro, ecco, due reti che sono sullo stesso piano, nella stessa zona. Ecco, esatto. Diciamo che un altro difetto che hanno almeno le connessioni wireless più economiche è anche la velocità, nel senso che il cavo garantisce una velocità di 100 mega, mentre normalmente le 1000 anche adesso. 1000, vabbè, sono un po' esoso. No, nel senso che un giga è abbastanza inutile normalmente, nel senso. Però insomma le schede wireless arrivano normalmente adesso ai 54 mega. Esistono anche quelle da 108, però sono decisamente più costose. Poi per esempio portatili che hanno schede integrate tipicamente le hanno di tipologia G, che sono appunto quelle da 54 mega. Sì. Quindi è un lato negativo, se vogliamo, della connessione wireless, che non è performante quanto quella del cavo. Dovuto esclusivamente al fatto che è una tecnologia nuova, perché cioè, esiste già l'altro modello più evoluto, probabilmente tra un anno avrà un costo pari a quello della scheda 54 mega, quindi diventerà pari al cavo normale. Relativamente una cosa volevo dire sulla questione della distanza che si può raggiungere. Abbiamo parlato di apparecchi normali casalinghi, però fanno tipicamente sui 150-200 metri, cifre del genere. Però possiamo pensare di prendere delle antenne, dei paraboloni tipo. Sì, sono vari tipi di antenne. Sky o cose del genere, prendere il satellite e con quelli riusciamo a trasmettere a distanze decisamente maggiori. Si parla, sì, anche in alcuni casi di qualche chilometro. Esatto, sì. Sono vari tipi di antenne, monodirezionali e omnidirezionali. Si capisce anche dal termine quello che, cioè, che trasmettono il campo solo in una direzione, quindi abilitano la connessione solo in una direzione, oppure tutto intorno all'antenna. Esatto, e amplificano il segnale emesso dall'access point, quindi dando una maggior portata al segnale. Ma ad esempio sarebbe possibile connettere ad internet un quartiere? Sì, teoricamente sì, se tutti nel quartiere riescono a ricevere il segnale o hanno access point che ripetono, fungono da ripetitori del segnale, uno potrebbe collegare assieme anche un'intera città volendo. Ed è una cosa che è abbastanza diffusa, non ufficialmente, però il fatto che in molte città del mondo spesso capiti che ci siano delle reti lasciate aperte, quindi disponibili a chiunque, o per sbaglio o per scelta. Ad esempio, mi è personalmente capitato di accendere il mio computer a Bologna, in Piazza Maggiore, e di essere già automaticamente connesso a internet, e questo capita anche in altre città e in altre zone. Questo perché, un po' anche per scelta, cioè ci sono proprio persone o gruppi di attivisti che decidono di lasciare parte della loro connessione a disposizione di chiunque passi sotto i loro muri di casa. E questa è una cosa che in un certo modo garantisce una connessione, quando sarà più sviluppata potrebbe garantire una connessione ovunque senza costo a chiunque. Esatto. Però Fabio appunto volevi parlarci anche di hotspot e di altre tecnologie. Sì, infatti quello che ha detto Francesco si ricollega al discorso degli hotspot, che sono in pratica dei punti dove il segnale wireless c'è, dei punti pubblici, dei parchi, delle piazze, ma anche bar, biblioteche, aeroporti, dove si può navigare se si ha un computer con una scheda wireless. Alcuni posti, tipo i bar o cose del genere, la navigazione è sì gratuita, però bisogna consumare, quindi non è poi così tanto gratuita, mentre per chi è in casa, ha un collegamento a internet e vuole concedere la navigazione a quelli che passano sotto casa sua o al suo vicino, questo lo può fare liberamente e gratuitamente, uno riesce a navigare. Esistono anche dei progetti a livello a volte cittadino, con una serie di persone che si mettono d'accordo relativamente ai sistemi di autenticazione, in modo da poter permettere a una persona di gironzolare tranquillamente per la città e utilizzare sempre in punti diversi dei punti di accesso diversi, per cui si vanno a coprire anche delle zone consistenti della città, magari dei centri storici o delle zone un attimo più abitate. Sì, sì. E in chiusura della trasmissione, visto che siamo già ormai giunta alla nostra ora, ti chiediamo quali possono essere degli possibili sviluppi di questa tecnologia una volta che fosse in un certo modo più evoluta. Ma l'evoluzione si chiama WiMAX, promette bene, sembra che copra distanze chilometriche nell'ordine dei 50 km. In Italia le frequenze erano occupate dalla difesa, ma pare che le abbia liberate, quindi c'è libero utilizzo di queste frequenze e si aspettano che i dispositivi vengano commercializzati per provare questa nuova tecnologia e vedere se effettivamente quello che sulla carta dice si è reso. Potrebbe risolvere numerosi problemi, ad esempio quello del cablaggio delle città, che è sempre un problema molto molto costoso, o magari dei paesi dove i cablaggi non verranno mai portati perché il monopolista di turno non ha interesse. Vabbè, anche solo perché è impossibile pensarci, basti pensare a paesi come l'Africa, dove non ci sono in molte zone rurali nemmeno le connessioni telefoniche. Oggi si sono diffusi i cellulari, è abbastanza ovvio che questo possa essere una sorta di sviluppo uguale e combinato, in cui il massimo della tecnologia arriva nei posti più arretrati, proprio scavalcando alcuni passaggi che sono stati fatti nel corso di decenni oppure secoli. Tra l'altro mi viene da pensare che le prossime autoradio potrebbero essere già collegate a internet con qualche programma di peer-to-peer, se veramente si arriverà a chilometri e chilometri di distanza, potrebbe essere un'idea da sviluppare. Ok, Zamp fuma delle droghe strane, noi intanto facciamo partire la sigla e sulla sigla vi annunciamo già che il 17, il 18 e il 19 giugno ci sarà l'EC Meeting 2005 a Napoli. Tutti a Napoli! Presso il centro sociale Terra Terra di Napoli, e vabbè, ve lo ricorderemo anche settimana prossima e anche tra due settimane. Esatto, forse ci andremo, chi lo sa. Comunque per oggi è finita. Era la 18ª puntata di Cialtroni nello spazio e noi vi salutiamo. Ciao ciao ciao. Ciao. Ciao Alessandro. Ciao ciao.